Ronaldinho ha folleggiato per 3 giorni in un lussuoso hotel di Milano prima del derby. Bel pirla. Ma Mourinho in controtendenza lo difende. Io lo rispetto, perché attaccarlo? È giusto che prima di incontrare l'Inter si faccia festa. Noi gliela facciamo dopo.